Buonasera, io sono il microfono, sono un po' dispersi nell'aula e io personalmente saluto che diceva gli ospiti, sempre con la biblioteca provinciale italiana, per fortuna abbiamo questa piccola collaborazione. Sono contento perché la Romagna vive in queste presenze, delle cose che si incontrano, le persone che qui si incontrano, si vedono in tante altre poste. Devo dire, per me è un'occasione felice quella di poter ospitare gli autori, in questo caso abbiamo anche il nostro docente che sul palco vi racconteranno e parleranno dell'argomento scelto, no? Di oggi di impressione di antifascismo. E ricordo solo, ma questo lo avrebbe fatto Valeria, che domani ci sarà un altro incontro in questa stessa sala in collaborazione della politica culturale che in qualche modo abbiamo dovuto portare avanti e portiamo avanti come associazione storia regione di Circondrione. Tra l'altro fa parte un po' anche della nostra storia, nel senso che una parte importante dei soci sono in realtà membri attivi del mondo della scuola, insegnanti, quindi c'è questa corrispondenza insomma tra mondo scolastico e mondo di storia regione. Però è importante poter presentare anche proprio materialmente in una sede scolastica le iniziative di ricerca che vengono fatte. Qua vabbè un po' ci hanno alzato la schiacciata, nel senso che il protagonista della serata è un docente di questa istituzione, un docente che fa ricerca, e la connessione tra didattica e ricerca può essere una connessione molto, molto fruttuosa. Quindi Andrea oggi gioca in casa, io come presentatore mi sento anche un po' fuori luogo se vogliamo dirla in casa. Sì, per cui gioco in casa anche io come genitore di chi frequenta questa scuola. Io ne approfitto spudoratamente anche per fare uno spot pubblicitario, nel senso che, come vedete, qui davanti è stato allestito una sorta di presepe con la bibliografia relativa all'incontro di oggi, e questo allestimento fa parte di una tradizione in qualche modo anche di presentazione di lavoro di storia e regione che viene fatto in collaborazione con la Biblioteca Provinciale Italiana Valeria Teresan ha introdotto anche lei l'incontro oggi, continua da diversi anni e che mette in luce anche come il lavoro di storia e regione a volte è un lavoro di divulgazione, di promozione di iniziative culturali, di convegni, di conferenze, è anche e soprattutto un lavoro di pubblicazione di ricerche storiche. Ultimo numero uscito, in cui compare anche il lavoro di Andrea Sari, che Andrea ci presenterà oggi, è un numero in cui la parte monografica è dedicata alle comunità ebraiche in età moderna, ed è questo volume qua. Comunità ebraica in età moderna, la scelta di questo argomento è dovuta al fatto che negli ultimi anni si è accumulata una serie di ricerche di natura monografica sulla presenza delle comunità ebraiche in Europa centrale e meridionale, che ha aperto tutta una serie di questioni particolarmente rilevanti. Non sto ad allungarmi troppo su questa cosa, però l'aspetto interessante è che lo studio delle comunità ebraiche diventa anche una modalità per capire un elemento fondamentale della società europea tradizionale, cioè quello della mobilità e dell'ibridazione che c'è all'interno di questo mondo. Certa visione dell'Europa tradizionale sembra procedere per stereotipi, sembra descrivere una società piatta, sostanzialmente immobile, senza trasformazione, eccetera. In realtà poi, aprendo la scatola nera della storia, andando a vedere con la prospettiva micro le vicende delle singole comunità, noi notiamo invece storie di mobilità, presenza di comunità religiose, linguistiche diverse, una vivacità notevole. E la storia delle comunità ebraiche permette di raccontare questa storia, e in questo numero in particolare è interessante la ricostruzione della presenza della comunità ebraica a Bolzano, una comunità che ha una storia lunga, una comunità piccola però che è stata costantemente presente nella storia bolzanina, grazie anche alla funzione economica che ha svolto connessione con i traffici lungo la via del Reno. Quindi il contributo di Francesco Saracino e Mara Bambierato sulla comunità ebraica di Bolzano nel XVIII secolo, si intitola così, con un sottotitolo un'eccezione nel panorama asburgico, mette in luce il radicamento di alcune famiglie ebraiche nella comunità locale, ma anche mette in luce come il fatto che l'attività che svolgevano queste comunità fosse in qualche modo funzionale agli interessi della comunità locale, abbia anche reso la comunità locale molto tollerante. Era una famiglia che era integrata in qualche modo nel tessuto e nella storia della città. Ecco, quindi abbiamo una parte monografica composta da tre articoli che riguardano appunto comunità ebraica, alcune dislocate in Germania occidentale, in Germania settentrionale, e poi questo di Francesco Saracino e Mara Bambierato. Però al di là di questo è un numero sariano, potrei definirlo così, nel senso che Andrea Sari è presente con ben due contributi, cioè questo approfondito sul vescovo Geist di cui parleremo dopo, e c'è anche una recensione. Ecco, presentare qui Andrea mi sembra un po' strano, però voglio farlo lo stesso, voglio presentare alcuni tratti della sua biografia per inquadrare un po' qual è il suo itinerario di studioso. Si è laureato con una tesi di storia della Chiesa, in lettere moderne, inizio storico, presso l'Università degli Studi di Bologna. Il titolo della sua tesi di laurea è Chiesa e società bersanone, le lettere pastorali dei vescovi. Ecco, io mi sentirei di inquadrare Andrea Sari, se posso, se mi lascia Andrea, nella scuola bolognese. Posso farlo? Mi permetti? Ok. Scuola bolognese, che è un filone importante della storiografia della Chiesa in Italia. Una tradizione nobile che risale a Rossetti, se vogliamo prendere il padre patriarca, diciamo, di questo indirizzo, e poi Giuseppe Alberigo, Melloni, Daniele Menozzi, che è stato il maestro di Andrea, e che si caratterizza per due aspetti fondamentali. Il primo è un approccio critico alla storia della Chiesa, un approccio critico e un'attenzione a quelli che sono gli elementi evolutivi moderni presenti nella dinamica della Chiesa, quali sono invece le dinamiche più regressive, e dall'altra parte l'aspetto interessante dal punto di vista metodologico, un attento utilizzo delle fonti, e questo Andrea lo ha sempre avuto nel suo DNA di studioso, nella produzione scientifica che ha presentato in diverse sedi. Andrea è un attento studioso delle fonti relative alle vicende che descrive, e questa, questa adesione alle fonti permette anche di ottenere risultati originali e importanti. Anche perché la storia della Chiesa è un ambito difficile, è un ambito d'analisi complicato in qualche modo, di cui è complicata anche la comunicazione, se vogliamo. Da un lato perché al di fuori di una cerchia di specialisti, di soggetti come voi immagino particolarmente sensibili alla tematica, è oggi, soprattutto penso ai giovani, difficile riuscire a spiegare quale sia stata in passato, che è ancora in parte oggi, l'importanza fondamentale dell'istituzione Chiesa all'interno delle società occidentali. Importanza che c'è sul fronte ovviamente dell'elaborazione del pensiero morale, della dimensione religiosa, del pensiero filosofico, ma importanza anche in quanto istituzione presente in maniera radicale, ramificata nella realtà sociale. In passato questa era una realtà molto presente, molto forte, che ha partecipato di prima persona agli eventi del passato, e quindi lo studio della storia della Chiesa significa coprire una parte importante della vicenda storica del mondo occidentale. L'altro aspetto di difficoltà, cioè di complessità che c'è legato alla storia della Chiesa è che è un'istituzione sui generis. Chi fa storia studia le istituzioni, le istituzioni hanno uno spazio d'azione, un tempo d'azione e un tempo in cui agiscono e una missione che portano avanti. Ecco, lo spazio, il tempo, la missione della Chiesa sono degli elementi molto particolari, perché la Chiesa è un'istituzione universalistica, e quindi che tendenzialmente universalistica, quindi che va al di fuori della dimensione locale, nazionale, che è quella che di solito viene utilizzata per le analisi di tipo storico, ha un orizzonte temporale, che è quello del tempo lungo e lunghissimo, quindi ben al di là di quello che sono gli orizzonti temporali delle istituzioni che studiamo solitamente. Quando studiamo la storia politica, molto spesso l'orizzonte temporale di chi decide, di chi governa, è quello delle prossime elezioni, insomma, si arriva lì, non si va oltre. Beh, la Chiesa ha una prospettiva, diciamo, un pochino più lunga, e soprattutto è legata nella sua azione al patrimonio che si porta dietro e a quello che verrà dopo, insomma, quindi è veramente un'azione che va letta, che va interpretata all'interno di un arco temporale lungo. E poi c'è l'obiettivo dell'istituzione, che è sì un obiettivo di presenza all'interno della realtà sociale, e noi sappiamo quanto l'apporto della Chiesa in alcuni contesti sia rilevante da questo punto di vista, ma la missione, un'altra missione, forse la missione più importante, più rilevante, è la salvezza delle anime, tutto sommato, no? E quindi quando noi andiamo a interpretare la presenza della Chiesa nella storia, dobbiamo tenere conto anche di questo elemento. Ecco, questa complessità della presenza storica della Chiesa rende difficile trovare delle chiavi interpretative che in qualche modo ci aiutino a collocare l'azione dei soggetti che fanno parte della Chiesa all'interno delle vicende storiche. Si corre il rischio di usare delle chiavi interpretative sbagliate, di prendere degli abbagli, perché non si tiene conto appunto di quanto complessi siano gli elementi che chi agisce nell'ambito della Chiesa deve tener conto, il carico che si porta sulle spalle per la propria azione. Ecco dunque che questo aspetto critico, insomma, deve essere messo in luce quando si affronta un saggio di storiografia della Chiesa come quello di Andrea, che presenta una figura controversa come quella del vescovo di Plessanone, Johannes Geisler, anzi principe vescovo di Plessanone, è stato l'ultimo principe vescovo di Plessanone. Già questo titolo in qualche modo porta con sé tutta la complessità, tutto il carico, insomma, gravoso di storia che grava sulle sue spalle. Un personaggio che si trova a operare in una situazione di estrema complessità e di estrema difficoltà. La diocesi di Plessanone, abbiamo presente insomma che all'epoca l'azione spaziale della diocesi di Plessanone non è quella della diocesi di Bolzano, questa va inoltre. La divisione, le divisioni politiche non avevano scalfito quella che era la realtà diocesana, che ricalcava vecchi confini, per cui la diocesi di Trento arrivava, comprendeva Bolzano, comprendeva una parte importante della Valle dell'Adige, dove su Plessanone invece era nota. Ecco, dove su Plessanone si trova al centro di una serie di vicende storiche drammatiche. Da un lato c'è ovviamente la separazione dell'Alto Adige dall'Austria, con tutto il carico di tensioni che riporta all'interno della comunità cristiana anche, e la Chiesa ovviamente è protagonista all'interno di questa storia. E dall'altra parte ci sono le vicende esterne, ci sono vicende che hanno riflessi importanti, c'è cioè, ovviamente la discesa del fascismo in Italia, che condiziona sia la vicenda delle minoranze in Alto Adige che i rapporti fra Stato e Chiesa, c'è l'ascesa del nazionalsocialismo in Germania, c'è la crisi economica che negli anni 30 andava su tutto il mondo con effetti molto gravi, anche in sede locale. Insomma, perché il collo di Wall Street non riguarda solo New York, ma riguarda in maniera molto pesante anche la qualità della vita nella realtà locale, nello specifico anche in Alto Adige. Cioè, ecco, Johannes Kaiser si trova ad operare in questa realtà. Si trova ad operare in una realtà in cui la popolazione vede pesantemente, la maggioranza della popolazione vede pesantemente messa in discussione la propria identità linguistica e culturale, in una realtà dove la popolazione subisce gli effetti della crisi economica, e in un contesto appunto dove gli strumenti di controllo e di pressione esercitate dal potere politico sono particolarmente stringenti. E oltre al numero c'è l'ombra lunga del nazionalsocialismo che si sta affermando e che comincia a espandersi anche sull'Alto Adige. Ecco, quello che si crea in questo, a questo punto di vista, è una tensione fra l'insegnamento della Chiesa e le sirene invece del richiamo nazionalista. E in questa tensione alla fine la Chiesa rischia di uscire perdente, perché la capacità di attrazione propagandistica, anche portata avanti con una abilità tecnica straordinaria da parte del nazionalsocialismo, è particolarmente forte e attecchisce in una realtà piena di problemi come quella dell'attuale. E Johannes Kaiser deve districarsi in questa realtà. Ecco, dal punto di vista storico forse la sua figura è nota soprattutto per il fatto di essere stato il vescovo che alle elezioni ha optato per la Germania. No? C'è questa scena molto cinematografica di lui che prima in qualche modo tenta di farsi mettere in pensione per non partecipare alle elezioni, poi partecipa, però quando va a votare si toglie l'anello pastorale, entra e vota per non far pesare, almeno da questo punto di vista, forse il suo ruolo istituzionale. In un contesto in cui, vale la pena ricordarlo, il Vaticano in gran parte aveva spinto in realtà perché Hitler votasse per l'Italia. E infatti, dal punto di vista statistico, l'80% del clero su tirolese della diocesi di Bressanone vota per l'Italia e il 90% del clero trentino vota per l'Italia. Il problema è che Assilla Geisler, al di là di quella che è la sua posizione di coscienza, e anche l'idea comunque con gran parte della popolazione del suo gregge che si sposta in Germania, qualcuno, qualche pastore forse deve anche seguirlo. Ma questa storia non verrà raccontata qui, Andrea si concentrerà sugli anni 30, che sono forse il periodo più interessante da questo punto di vista, perché è il periodo in cui si caricano queste tensioni particolari, che lui legge anche in un'ottica più ampia, che è l'ottica del confronto fra la missione della Chiesa e la secolarizzazione della società, una secolarizzazione che avanza in vari ambiti, ma che sicuramente cammina anche sulle gambe delle dittature, che offrono ovviamente una lettura della storia della politica che è radicalmente diversa da quella della Chiesa. Bene, io ho fatto già poco tempo, passo senz'altro la parola ad Andrea. Grazie Andrea, grazie, e un saluto anche da parte mia, grazie a tutti i presenti, alla scuola appunto, che alla nostra scuola che ci ospita. Provo solo allora. E avremo qualche parola scritta, qualche parola chiave, diciamo, perché ci farà un po' compagnia in questa chiacchierata. Andrea ha messo molta carne al fuoco e mi ha appunto fatto da questo, mi ha fatto il compito anche, dando già alcune coordinate, e come cercherò di muovermi in questa chiacchierata, insomma, questi così 30-35 minuti. Per poi magari allargare la chiacchierata a eventuali vostri interventi o richieste di approfondimento o di discussione. Un paio di, così, di considerazioni, chiamiamole così, a volo d'uccello, una di carattere metodologico, un po' sulle fonti, sui documenti che ho cercato di utilizzare in questa ricerca, e un'altra magari di carattere storiografico sul nesso chiesa-fascismo in generale, no? Per poi dopo scendere a vedere appunto due o tre aspetti, diciamo, due o tre parole chiave appunto anche qui, naturalmente le cose da dire sarebbero tante, insomma ho pensato di mettere a fuoco alcuni aspetti forti, diciamo, della predicazione appunto del vescovo, proprio lontano, del vescovo Geiser. Vedete, era nato nell'82, a Mayrhofen, in Zillertal, in Tirolo del Nord, e muore 70 anni dopo. È un sacerdote di formazione filosofico-teologica, entra presto, diciamo, nella carriera ecclesiastica, diventa segretario durante la Grande Guerra del vescovo Franz Kicker, e poi entra in seminario come docente e ha una lunga carriera di docente di storia della Chiesa nel seminario vescovile di Bressanone, a partire appunto dal 22, e nel 30, dopo tre anni di vacanza episcopale, diventa vescovo di Bressanone. Viene nominato nell'aprile del 30 dalla Santa Sede, e nel maggio del 30 si viene consacrato vescovo a Roma, e in giugno fa il suo ingresso ufficiale nella città vescovile, no, lungo l'Isarco. Rimane appunto in carica fino al 52, che è poi l'anno della morte, quindi attraversa tutti gli anni 30, che sono gli anni della accentuazione in senso totalitario del regime fascista. Sono gli anni, appunto, lo diceva poco fa Andrea, della presenza clandestina del movimento pangermanista e nazista in Alto Adige con il VKS, che fa una propaganda anche alternativa o in competizione con quella del clero parrocchiale, del clero diocesano. Attraversa gli anni della guerra d'Etiopia, della guerra di Spagna, delle leggi razziste del 38, delle opzioni appunto a cui faceva riferimento Andrea, e poi tutta la seconda guerra mondiale e anche un pezzo, diciamo, iniziale di guerra fredda. E il suo successore sarà appunto Josef Gagit, l'ultimo vescovo della diocesi di Bressanone, che scomparirà appunto dal panorama istituzionale ecclesiastico nel 64, quando appunto nascerà la diocesi di Bolzano e Bressanone, i cui confini coincidono appunto a partire da allora con quelli della provincia di Bolzano. Questo è Geisler, così rapide pennellate biografiche della sua vita, della sua carriera, della sua esistenza, e appunto non parleremo in effetti di opzioni. Perché? Ma per due motivi fondamentalmente. Il primo è un argomento molto complesso e molto complicato, che richiede una trattazione specifica a sé stante. Alcuni studi poi ci sono anche interessanti, ci sono già, ma è un tema che sicuramente richiede di essere approfondito con scavi archivistici tuttora da fare. Il secondo motivo è che l'obiettivo del mio lavoro è stato quello di cercare di mettere in metà fuoco il discorso religioso di Geisler, del vescovo Geisler, negli anni appunto 30, negli anni del fascismo, utilizzando le fonti che meglio si prestano a questa indagine. Le fonti non sono appunto fonti, diciamo, di carattere politico-diplomatico o privato, no? O fonti relative, diciamo, fonti di terzi, fonti di polizia sostanzialmente, o di informatori sull'operato del vescovo di Bressanone. Le fonti sono i materiali che Geisler con i suoi collaboratori preparava per la predicazione pubblica, per i discorsi pubblici, per l'insegnamento, per l'attività di insegnamento che ogni vescovo della Chiesa cattolica era ed è tenuto a fare. Sono le omelie edite, in alcuni casi appunto sul Cattolische Sonntagsblatt, che è il settimanale della diocesi, fondato nel 1927 e diretto da Monsignor Schurchenthaler, in molti casi inedite, sono conservate nell'archivio diocesano di Bressanone presso la Coppa, che poi è quel bellissimo edificio rinascimentale che abbiamo riprodotto anche nella locandina per questa serata. E poi sono anche accanto alle omelie dattiloscritte in lingua italiana e in lingua tedesca le lettere pastorali, le Kirchenbriefe. Le lettere pastorali sono uno strumento a cui i vescovi dal Concilio di Trento in poi, e soprattutto direi dall'età della Rivoluzione francese in poi, utilizzano periodicamente almeno una volta all'anno, poi anche di più, per rivolgersi a clero e fedeli in lingua volgare, quindi non in latino appunto, ma in tedesco, nel nostro caso in italiano, per svolgere attività di predicazione e di insegnamento. E dove si trovano questi documenti, che appunto sono editi, ho utilizzato il materiale edito in questo caso? Sono pubblicati in alcuni casi, anche qui dal settimanale, dal Cattolische Sonntagsblatt, e comunque di regola, di norma, sempre dal bollettino della diocesi, che si chiama Brixner Kirchensamblatt, nasce negli anni 50 dell'Ottocento, molto prima che di quanto avverrà poi nelle diocesi italiane. Siamo in una situazione molto simile al caso francese, al caso spagnolo. Cambia nome questo bollettino negli anni del fascismo, vedete compare la scritta latina Folium Diocesanum Brixinense, e oggi si chiama Folium Diocesanum Bauzanense Brixinense, no? Dal 1964. Sono fonti facilmente consultabili, sono anche qui alla Biblioteca Tesma, oltre che a Bressanone, alla biblioteca appunto del seminario, e c'è la raccolta completa. Negli anni 30 vengono pubblicate prima in lingua italiana e poi, no, nella versione appunto in lingua tedesca. Questo è un tipo di fonte che consente di leggere, provare a comprendere il discorso religioso, dicevo poco fa, dei vescovi, quindi non solo di Geisler, ma diciamo dei vescovi appunto della Chiesa Cattolica, consente di studiare gli orientamenti culturali, no? L'ideologia religiosa alla quale i vescovi della Chiesa Cattolica fanno riferimento nello svolgimento della loro azione pastorale. E quindi effettivamente sono fonti che ci parlano di, ci consentono, diciamo, ci parlano, è un'espressione un po' fuorviante, ma insomma ci consentono di visitare sul medio-lungo periodo il mondo culturale, il mondo mentale, no, proprio, e le coordinate proprio ideologiche che hanno sorretto, no, l'azione pastorale dei vescovi. Questa è un po' la particolarità di queste fonti. Le omelie sono normalmente brevi, insomma sono 2, 3, 4 pagine da più scritte, le lettere pastorali sono quasi il doppio normalmente. E dicevo almeno una volta all'anno, i vescovi erano e sono tenuti a pubblicare la lettera pastorale all'inizio della Quaresima. Mercoledì delle Ceneri, anche oggi, viene pubblicata la lettera pastorale del vescovo, che dedica un testo corposo di solito su questi temi. I temi sì, spesso, a volte sono appunto, come dire, puramente intraecclesiali, no? Magari sono di carattere strettamente teologico-spirituale, ma prevalentemente sono temi pubblici, cioè sono temi che toccano il nodo dei rapporti tra Chiesa e società nel mondo moderno e contemporaneo. E quindi sono temi che escono dai confini, diciamo, dell'area dei cattolici, dei credenti, e investono proprio il rapporto tra Chiesa e società. Questo avviene anche durante il fascismo, non cambia nulla da questo punto di vista, e avviene appunto con il nostro Geisel, avviene appunto anche a Trento con il suo collega Enrici. Da questo punto di vista, quindi, tutto procede come se nulla fosse cambiato. Chiesa e fascismo. Piccolo sguardo storiografico, giusto per avvicinarsi adesso, fare un passo ulteriore, no, per avvicinarsi appunto al nostro caso. Chiesa e fascismo vuol dire provare a vedere che cosa come gli storici hanno in Italia negli ultimi 40 anni si sono misurati con questo tema. Pietro Scoppola, storico cattolico democratico, ha partecipato anche alla vita politica in prima persona in alcuni anni della storia repubblicana. Nel 71, in un suo corposo volume sul rapporto tra Chiesa e fascismo, parlava di equilibrio precario, no? Chiesa e fascismo non si vogliono bene, anzi si diffidano l'uno dell'altro, sono in una sorta di pace armata che ha un momento solenne di celebrazione, che è la conciliazione concordato 11 febbraio 1929, però i due soggetti, insomma, si guardano con diffidenza reciproca e l'accordo regge, ma è un accordo precario, entra in crisi anche abbastanza presto, già nel 31, per controllare i movimenti giovanili, controllare le situazioni giovanili nel conflitto intorno all'azione cattolica. Rito De Felice, storico liberale, il biografo di Mussolini, questa monumentale biografia appunto del capo del fascismo, nel 74, dopo nel volume Mussolini il Duce, si spinge un po' oltre e parla di matrimonio di interessi. Cioè, è vero, Chiesa e fascismo non si amano, quindi da questo punto di vista ha ragione Scoppola a mettere De Felice, però hanno un interesse comune da difendere e si sposano, quindi Patti Lateranensi nel 1929. Qual è questo interesse comune? È un nemico comune. Il nemico comune è il liberalismo e poi soprattutto il comunismo, e allora si accordano per tutelare i reciproci poteri, entrambi impauriti, no, da questi nemici. Ecco, Giovanni Miccoli è lo storico che ha più riprese, storico medievista, tra l'altro di formazione, un grande esperto di studi francescani, ma grande esperto anche del rapporto Chiesa e società del Novecento. Andrea parlava di scuola bolognese prima, ecco, aggiungiamoci pure il nome di Miccoli come storico triestino vivente, che ha per gli ultimi 40 anni, insomma, sondato, no, il nodo dei rapporti tra Chiesa e società. Miccoli ha parlato di consonanze più o meno profonde e convergenze tra due poteri, due realtà, due ambiti che non si uniscono solo perché hanno un interesse in comune, ma si uniscono anche perché hanno valori condivisi, alcuni valori condivisi. Il principio di autorità, per esempio, il principio di obbedienza, quindi l'autoritarismo anche nelle sue varie forme, una certa forma di maschilismo e virilismo, un tratto molto importante anche nella visione dei rapporti non solo politici ma anche dei rapporti umani, e quindi si avvicinano anche andando al di là del semplice, del pur importante interesse, diciamo così, politico pragmatico. Infine, un libro molto recente che trovate nella biblioteca appunto Claudio Augusta, un libro di Lucia Cecci, 2013, la quale, che è questo qui, l'interesse superiore, il titolo del libro, pubblicato dalla Terza. È un bel libro corposo, però si legge molto bene, a differenza magari di altri saggi storici, ecco, di De Felice, per esempio, insomma, è decisamente più leggibile, anche proprio più piacevole da leggere. È un libro che per me è stato molto importante, molto utile nel lavorare su Geisler in questo periodo così complicato, così contorto anche, no? Che cosa dice Lucia Cecci? Va un po' oltre sia Scoppola sia De Felice, potremmo dire, e aggiorna Miccoli, no? Si richiama Miccoli e in qualche maniera lo sviluppa un po' le premesse del discorso di Micoli, e dice in sostanza da parte della Chiesa Cattolica, Papa Pio XI, i vescovi, le gerarchie ecclesiastiche, il laicato cattolico, la dirigenza della Chiesa Cattolica, il mondo intellettuale cattolico degli anni 20-30, diciamo almeno dal diritto Matteotti in poi, cioè almeno dal 24 in poi, sacrificano in qualche modo più o meno lucidamente, a volte anche molto lucidamente, anche i propri diritti, la propria identità in nome di un interesse superiore. Qual è questo interesse superiore? Tutelare la presenza pubblica, la presenza giuridica, la presenza educativa, la presenza culturale della Chiesa negli spazi aperti, appunto, lasciati aperti dal regime, poi soprattutto dopo il concordato del 29. Quindi c'è come uno scarto, dice Lucia Ceci, mostra in questo libro, tra le riserve che molti ecclesiastici, forse lo stesso Papa, hanno nei confronti del fascismo, del regime fascista, da una parte, e invece dall'altra quasi la scelta, appunto, del silenzio, la scelta dell'obbedienza, la scelta, appunto, della omissione della denuncia in nome, appunto, della tutela di un interesse di potere, sostanzialmente, un interesse politico istituzionale. Geisler l'ho trovato dentro questa tensione, diciamo, tra questi due poli. È vero, noi abbiamo decine di carte di polizia che dicono il clero della diocesi ancora una volta si dimostra ostile alla nostra presenza nazionale, ci rema contro, non ci dite da fare, organizzano, appunto, i fedeli contro di noi, e quindi sono sotto osservazione per questa opera di resistenza che il clero locale compie nei confronti dell'opera di italianizzazione forzata, violenta, da parte del regime. Però nelle lettere pastorali e nella predicazione, nelle omelie del vescovo Geisler, tutto questo non emerge, tutto questo non appare, non c'è nulla in questo ambito. Cioè, in ambito, come dire, del basso clero, in ambito privato, c'è l'azione più o meno clandestina di opposizione denunciata, appunto, dalla polizia, da parte del clero locale verso le autorità fasciste. Ma in ambito pubblico, sulle pagine del giornale diocesano, sulle pagine del bollettino diocesano, nelle parole, appunto, del vescovo Geisler, non c'è opposizione. Certo, non è facile opporsi a un regime totalitario, no? Le difficoltà sono enormi, no? I problemi sono enormi. Contemporaneamente in Germania, negli anni 30, l'alleato di Mussolini sta stringendo le tenaglie intorno al mondo cattolico, e lo sta perseguitando sicuramente in maniera più dura di quanto non faccia il fascismo in Italia. Quindi c'è una difficoltà oggettiva, però forse c'è anche dell'altro, no? Sul silenzio pubblico, diciamo, da parte del vescovo Geisler. Secondo me, ho provato un po' così a farmi quest'idea, leggendo anno dopo anno le lettere pastorali e le omelie, e confrontandole con le lettere pastorali e le omelie dei predecessori, cercando, appunto, di mantenere lo sguardo sul periodo medio-lungo, diciamo. Forse anche dell'altro, per aiutare a comprendere come agisce e come si muove l'azione pastorale del presbite di Bressanone. L'attività pastorale con questi strumenti consente, secondo me, di inserire l'azione di un singolo vescovo dentro un contesto più ampio, di carattere politico, ma anche di carattere proprio culturale, no? E cioè il contesto della rottura tra Chiesa e modernità. Durante l'età della Rivoluzione francese, dell'Illuminismo, il cattolicesimo intransigente europeo dice: c'è in atto una apostasia del mondo moderno da Dio, dalla Chiesa, dal Papa. Apostasia vuol dire abbandono, distacco, allontanamento. Come il paganesimo antico, insomma, ha rifiutato il cristianesimo almeno fino all'imperatore Costantino, così oggi, no, il mondo moderno sta rifiutando la direzione della Chiesa sulla società e sta facendo, per usare le parole di Geisler, Abfall von der Kirche, von Gott und also von der Kirche, sta facendo cioè un'opera appunto di ribellione. La modernità è l'uomo, la società moderna, che vuole autonomia, nel senso proprio letterale, vuole darsi le leggi da sé, no? Staccando la vita dello Stato, le leggi, la scuola, l'organizzazione della vita civile dalle norme religiose: matrimonio civile, codice napoleonico, il divorzio, la scuola pubblica, l'anagrafe civile e così via, no? Anche Geisler si inserisce in maniera molto costante, coerente, lucida dentro questa linea. Tempo scorre, vedo. Vi leggo una citazione abbastanza lunga, ma è la prima e l'ultima, poi le altre saranno eventualmente molto, molto brevi. È proprio presa dalla prima lettera pastorale, 1930. Il tema è la carità. E Geisler dice: ne abbiamo bisogno dopo la crisi, durante la crisi economica che è scoppiata l'anno prima, ne abbiamo bisogno per sopravvivere, per fare fronte alle difficoltà che anche appunto qui da noi, no, nelle nostre valli, nelle nostre città dell'Alto Adige, si fanno sentire e come. E dice però: dopo la prima guerra mondiale, si è levata la voce: non più guerre, non più guerre. Ma il secolo d'oro della pace, scrive Geisler, spunterà solo quando l'umanità praticherà meglio e più la carità. E l'umanità praticherà meglio e più la carità quando sarà più profondamente penetrata dal cristianesimo. La carità è un fiore dal cielo che è stato portato in terra dal cristianesimo, e questo fiore cresce soltanto sul suolo sovrannaturale del cristianesimo. Poi va avanti, salta un po' di passi, e dice insomma alla fine: nel paradiso dominava l'amore, dove domina l'amore ancora oggi è un paradiso, ma l'umanità si è distaccata da Dio, e più si è staccata e allontanata da Dio, più si è raffreddato l'amore e più si è divulgato l'odio, no? Apostasia, abbandono dell'umanità moderna, di Dio e della direzione politico-culturale della Chiesa sulla società, e quindi barbarie, e quindi caos, e quindi guerre, e quindi povertà. Allora è solo rientrando appunto nell'alveo, no, della fede cristiana, incarnata appunto dalla Chiesa Cattolica, dall'insegnamento del Papa, che l'umanità può sperare di salvarsi. C'è in atto qui una cultura che è quella che risale a Sant'Agostino, cioè alla concezione, alla filosofia, alla teologia della storia del peccato originale. L'umanità si è macchiata indelebilmente una volta per tutte, e per cui o rimane sotto l'ombrello protettivo, diciamo così, passatemi questa immagine, dell'insegnamento ecclesiastico, oppure è destinata ad andare incontro alla barbarie. Geisler riprende questo filone, ha studiato su questi libri, ha letto anche un dizionario di teologia cattolica del 1914, che è presente a Bressanone in edizione francese, e ha scritto anche in alcune sue lettere più avanti, nella seconda guerra mondiale, che ricalcano proprio questa idea. c'era nel paradiso terrestre l'amore, poi c'è stato il peccato originale e l'umanità, no, è crollata, è decaduta appunto nella guerra. La voluptas dominandi, no, dell'uomo, appunto, che vuole fare a meno di Dio. Addirittura, secondo Geisler, e non è l'unico, non è da solo in questo senso, l'origine dei mali è ancora prima della rivoluzione francese, è in Lutero. C'è una lettera del 34, quindi 4 anni dopo l'insediamento, in cui dice: es kam die Zeit der sogenannte Reformation, no? Arrivò il tempo appunto della cosiddetta riforma, sogenannte Reformation, da lì appunto quasi metà, fast Hälfte der Christenheit von der Mutter Kirche sich trennt, quasi la metà appunto della cristianità si separò dalla Chiesa con Lutero. Poi dopo Lutero arriva la rivoluzione francese e lì il trauma, la frattura si approfondisce. Dopo la rivoluzione francese arriva il liberalismo, e dicono i liberali oggi vogliono chiudere la fede, la religione dentro l'ambito privato. E questo è il moderno, questo è il neopaganesimo, no? dice Geisler. Dopo i liberali arriva il comunismo. E Geisler usa la parola comunismo nelle sue lettere pastorali, nelle omelie, la usa parecchio, insomma abbastanza, la usa anche sotto, la usa nell'espressione appunto comunismo e nell'espressione bolscevismo, forse ancora di più. Non usa mai la parola nazismo, e c'è una omelia in cui compare la parola nazismo, ma è molto probabilmente un'omelia del 1948, dopo la seconda guerra mondiale. Usa un paio di volte la parola fascismo, no? Quindi l'ossessione di Geisler è un po' indubbiamente il comunismo. Già dal 32 e poi soprattutto nel 37, nel 38, diciamo verso proprio la fine degli anni 30, il riferimento che Geisler continua a fare è al magistero del Pio XI di Papa Chileratti, secondo il quale comunque il problema non è il totalitarismo, il problema è il totalitarismo del fascismo o del nazismo, perché Ratti, Papa Ratti, Pio XI, a cui appunto Geisler fa riferimento, in un discorso ai sindacalisti francesi cristiani nel 1938 disse: se c'è un regime totalitario di fatto e di diritto, è il regime della Chiesa, perché l'uomo appartiene totalmente alla Chiesa. Quindi, dice Ratti, non è sbagliato il totalitarismo. È sbagliato il totalitarismo nella versione, nella veste cattolica e nazista. C'è un vero totalitarismo autentico, che è quello della Chiesa cattolica. L'uomo è figlio della Chiesa cattolica e lo Stato non può appropriarsi di una creatura appunto di Dio e della Chiesa cattolica. Questa è un po' la linea di Pio XI, a cui appunto non c'è il tempo per leggere, ma a cui appunto lo stesso Geisler appunto fa un richiamo abbastanza puntuale, anche se ripeto non usa la parola totalitarismo. Qual è, così mi avvio a chiudere, qual è il dicevo appunto il l'angolo visuale che Geisler predilige nel corso di tutti gli anni 30, direi a partire proprio da alcuni testi senza datazione che probabilmente risalgono proprio alle fasi iniziali del periodo del suo episcopato, ma anche poi ripresi con alcune omelie e lettere pastorali tra il 36 e il 38. Il tema è quello del duplice, la paura del comunismo. Il comunismo è una religione secolare molto temuta da Geisler e dall'Episcopato appunto cattolico europeo, perché si presenta con il volto seducente di una nuova religione, perché appunto parla ai poveri, parla appunto di giustizia sociale, parla appunto di diritti sociali. E quindi lui dice proprio in una lettera pastorale del 37, in un'omelia del 37, e dice stiamo attenti perché appunto è un volto diabolico quello con il quale si presenta il comunismo ai nostri fedeli che magari sono un po' ingenui, sono un po' semplici, si lasciano trascinare con il mondo. E quindi abbiamo bisogno di difese giuridiche, di difese istituzionali, abbiamo bisogno della buona stampa, abbiamo bisogno dell'Azione Cattolica. C'è una lunghissima lettera dedicata all'Azione Cattolica del 31, prima che scoppi la crisi tra Santa Sede e Stato Italiano sul controllo dell'Azione Cattolica, in cui dice appunto sosteniamo l'Azione Cattolica perché lì c'è il futuro, no? È il controllo sui giovani, sulle giovani generazioni, guai appunto a ammettere che lo Stato entri in questo cortile che è nostro, era nostro e dovrà restare nostro. E qual è infine lo strumento a cui ci si può rivolgere per difendersi e dal neopaganesimo liberale che vuole privatizzare la religione e dal seducente diabolico neocomunista? È lo Stato totalitario, o meglio, è lo Stato confessionale, così come i patti lateranensi del 29 lo hanno disegnato. Pio XI, all'indomani dei patti lateranensi, in un discorso pubblico tenuto agli studenti della Cattolica di Milano, disse: con questo evento è stato restituito Dio all'Italia e l'Italia è stata restituita a Dio. Sono stati chiusi i disordinamenti liberali grazie all'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare, no? Il riferimento naturalmente è al giudice del fascismo, naturalmente, no? Grazie all'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare. Bene, Geisler usa la parola fascismo un paio di volte, la usa in omelie prive di datazione, probabilmente nella fase iniziale, secondo me nella fase iniziale appunto del suo mandato, e dice in sostanza che benedicendo il labaro di un'associazione sportiva, che non è però denominata, non è precisata, a Bressanone, dice il fascismo, ecco che lo nomina, ha fatto grandi cose. Il patto lateranense ha dato un grande ideale alla nazione nel campo economico e sociale. Il mio evviva vada alla collaborazione feconda fra Chiesa e Stato per il bene della Chiesa e della patria. Poi ci ritorna sopra, qui è una data, perché siamo nell'estate del 32, vengono mandati a Milan, vicino a Bressanone, bambini e ragazzi a fare le vacanze estive. È presente appunto il vescovo Geisler, tiene un discorso breve, anche qui ho dato lo scritto con alcune correzioni a penna, e dice: la volontà e più ancora il cuore del Duce, che tanto ama la gioventù e la vuole forte, non soltanto di corpo ma anche di anima e di spirito, vi ha condotti in queste parti affinché possiate ritemprare e ricreare le vostre forze. No? Geisler fascista? No, certamente no, non credo che si possa dire questo, non credo che stia in piedi. Sta in piedi, secondo me, e adesso chiudo veramente, il Geisler, vescovo nordtirolese, ma in perfetta sintonia con i suoi colleghi italiani, soprattutto in sintonia con il Magistero di Pio XI, secondo il quale bisogna appunto restaurare tutte le cose in Cristo, fermare il mondo moderno sia nella veste liberale sia in quella comunista, usufruendo di tutti gli strumenti messi a disposizione dallo Stato autoritario, dallo Stato totalitario, per primo fermare appunto il virus della modernità, anche nella sua versione più temuta, quella rivoluzionaria. Secondo, risanare in senso cristiano la società, in questo caso anche appunto la società del Tirolo meridionale, appunto della diocesi di Bressanone, per così ricomporre un'unità che la modernità sembra aver irreparabilmente, no, spezzato o gravemente danneggiato. Ecco, questo mi sembra che sia un po' la provvisoria conclusione, naturalmente, a cui si può arrivare sia questa sera sia al termine di questo lavoro di ricerca, utilizzando appunto queste fonti. Qui metterei, ecco, una piccola piccola guida bibliografica, così se qualcuno volesse prendere note, approfondire, il libro di Lucia Ceci, anche quello di Curzelli, che è interessante, un manuale di storia della Chiesa, curato dal nostro socio, poi tra l'altro, no, che è un docente di storia medievale a Trento, ha raccolto in volume, la prima volta che viene nell'ambito della editoria in lingua italiana, un libro molto recente, ha raccolto un materiale per avere una visione d'insieme della storia della Chiesa in Alto Adige. Poi ci sono i libri di Joseph Kelly, in tedesco, che è appunto l'autore, insomma, che più ha studiato i vescovi di Bressanone, no, non solo il mercato contemporaneo. Io mi fermerei qui, sono le 7 passate. A voi volentieri, se c'è desiderio, così la volontà di chiarire delle cose sulle quali magari sono stato troppo veloce o approfondire le altre. Grazie. Grazie Andrea per la tua relazione, anche per il rispetto dei tempi, insomma, che ci hanno dati, che è una virtù abbastanza rara. Allora, abbiamo visto, insomma, quanto complessa sia stata la posizione di Caestro, questi rimandi di continuità, una dimensione di lungo periodo e il contenuto teologico della riflessione che sta dietro al Magistero di Caestro, e la realtà terrena, insomma, sia un rapporto che rende piuttosto complesso, piuttosto difficile l'analisi, ma aiuta anche a illuminare, a spiegare alcune posizioni che altrimenti lette con lenti diverse sarebbero difficilmente comprensibili. Se ti puoi fare domande. Vuoi il microfono, Andrea? Andrea Di Michele. Allora, sì, funziona. Io mi risiedo qua comodo. Sì. No, molto interessante, ci sarebbero tante le cose da chiedere. A me pare che sì, la lettura che un po' riprende forse quella di Nicoli, di questo supremo e comune interesse che porta all'avvicinamento, sia assolutamente fondata. Io mi sembra in particolare che Geisler non avesse veramente, quasi è un po' una provocazione, ma non avesse proprio nulla di cui lamentarsi. Cioè che quello che succede in Alto Adige durante il fascismo nei rapporti Stato Chiesa è una situazione estremamente favorevole per la Chiesa, per certi aspetti eccezionale, perché la stampa di lingua tedesca continua a sopravvivere perché è una stampa legata alla Chiesa e quindi garantita dall'accordo del 29, e ci sono non a caso degli osservatori italiani e degli osservatori legati al Ministero dell'Interno, eccetera, vengono a Bolzano e dicono soltanto in una parte d'Italia lo Stato fascista non ha un controllo totalitario. Questa parte d'Italia è la provincia di Bolzano. E oltre a questo è questo controllo, che questa presenza, diciamo, afascista, non soltanto appunto è esterna alle istituzioni fasciste, ma è scritta anche in un'altra lingua, il tedesco, e quindi cita la stampa, perché la stampa di lingua tedesca vede un'enormità, se guardiamo le letterature del quotidiano fascista sono ridicole, no, in confronto a quelle. Quindi la mia osservazione, la mia domanda è questa: è questa situazione estremamente favorevole di cui gode la Chiesa, e io mi sono sempre chiesto come mai, come si spiega questa enorme differenza invece di quello che avviene sul confine orientale, dove la Chiesa di lingua slovena e di lingua croata viene decapitata e cancellata addirittura prima che arrivi il fascismo. Ci sono internamenti, rimozioni, eccetera, cosa che qui assolutamente non avviene. Quindi questa è la prima domanda. E la seconda domanda, molto rapida, è quella: questa analisi è condotta sulle prese di posizione del vescovo dopo il 30, sarebbe interessante retrodatarla per il decennio precedente, per notare se a seguito dell'accordo del 29 c'è una differenza di accenti o se c'è invece continuità in questa posizione. Alberto. Domandina molto banale. Ci sono differenze tra la traduzione di lingua italiana e la lingua tedesca? Ok. Una traduzione letteraria o un modo per comunicare con il popolo. Mm-hmm. Sono ancora domande, raccogliamo un po'. Okay. Sì, volevo fare un altro video, ma finita la guerra, la diocesi, la ricerca storica si sta avviando, quindi anche per questo caso, si è avviata verso i possibili collegamenti con i centri neofascisti di destra, tipo i circuiti odessi, eccetera. Cioè, voglio dire, la figura di Gasper può essere, forse dico una cosa sbagliata, però la butto lì, può essere paragonata secondo dopoguerra alla figura del vescovo Buda di Roma, quello di via Santa Maria dell'Anima. Tu sei, lo conosci? Ci sono questi collegamenti tra la fuga di ex nazisti e il mondo del secondo? C'è una domanda ancora? Sì, no, che penso che mi sentano tutti. E, una cosa particolare, visto come è stata tratteggiata la figura di Gasper, quando si leggono queste cose spunta un altro nome abbastanza regolarmente, che è quello del suo vicario Compagnini, il quale invece viene descritto come veramente l'anima militante dell'anti-italianesimo. Allora, cosa possiamo pensare? A una dicotomia, a uno scontro, semplicemente ad una suddivisione dei compiti, cioè il vescovo fa il vescovo e il vicario invece gestisce questa rete, perché sul ruolo di Compagnini mi sembra che dubbi, cioè sul suo impegno anti-italiano, anti-fascista, mi sembra che dubbi non ce ne possano essere. Tante e impegnative. Impegnative anche nel senso che io ho tenuto conto adesso mentre ascoltavo che ho tirato via un po' la buona su alcuni passaggi sui quali avrei invece dovuto soffermarmi un po' di più. Diciamo se un po' più circostanziato, per esempio durante le vicende nel 35, quando il 18 dicembre del 35 il regime proclama la giornata della fede fascista in risposta alle sanzioni decise appunto dalla Società delle Nazioni di Ginevra contro l'Italia fascista, che aveva aggredito nell'ottobre del 35 l'Etiopia. Beh, c'è il vescovo di Firenze, Cardinale della Costa, che si rimanda alla benedizione degli anelli nuziali offerti alla patria, e rimanda alla benedizione degli anelli d'acciaio in sostituzione di quelli d'oro al 29 di dicembre. E c'è il vescovo Geisler che il 12 dicembre del 35 pubblica appunto sul bollettino cesano un divieto al clero appunto di partecipare alla giornata della fede fascista, e dice sì, si possono benedire nel privato, no? Allora è un momento di fortissima tensione, indubbiamente. Sul bollettino cesano ci sono solo queste righe di divieto, poi non c'è altro. È antifascismo? No, credo di no. Lo ha scritto appunto anche correttamente, secondo me, Lucia Ceci, non in questo libro, ma in un libro precedente in cui ha raccolto, in cui si è occupata appunto del rapporto tra Chiesa e fascismo durante la guerra d'Etiopia. È una posizione dettata da ragioni appunto etnico-nazionali, non tanto appunto da una presa di posizione di tipo antifascista, che forse si può intravedere nel caso fiorentino, forse, di Dalla Costa. Poi ho tralasciato anche un altro anno chiave, il 37, quando in marzo il Papa Pio XI emana a poca distanza una dall'altra due encicliche, la Mich Brennende Sorge, che è un'enciclica dedicata al nazismo, in cui si condanna non il nazismo in quanto tale, ma l'aspetto del paganesimo razzista, del razzismo biologico del nazismo, e la Divini Redemptoris, in cui si condanna il comunismo in quanto tale, intrinsecamente perverso, no? E qui Geisler vieta al clero di leggere nelle chiese le due incipiti. Geisler nazista? Non lo so, non credo che si possa dire. Sicuramente sottovaluta la gravità del fenomeno nazista, sicuramente l'azione del vicario Company in quegli anni molto presente, nella seconda parte del mandato di Geisler è presente, e sicuramente l'atmosfera pangermanista si fa sentire in curia a Bressanone. Io però qui mi fermo, nel senso che le mie fonti, quelle che ho utilizzato, sono appunto quelle della predicazione pubblica, e quindi non posso, non riesco, non voglio andare oltre, nel senso che avrei bisogno di fare appunto scavi attivistici per vedere la corrispondenza magari tra Geisler e Company, e qui si può rimandare, si deve rimandare direi agli studi di Paul Stoyer, che ha studiato già parecchi anni fa questo aspetto anche dal punto di vista ecclesiastico. Mi fermo nel senso che appunto il materiale che ho utilizzato credo che possa servire, credo che possa essere utile per, ripeto, inquadrare la mentalità religiosa, la cultura religiosa, l'ideologia religiosa del vescovo, che viene orientata nelle contingenze del momento, così a seconda appunto delle necessità. Le prediche sono le lettere pastorali, sono la traduzione letterale proprio dal tedesco all'italiano, sì, proprio c'è una corrispondenza meccanica direi molto forte. Nel caso delle omelie il discorso è diverso, abbiamo una serie di faldoni in cui ci sono le omelie in lingua tedesca suddivise per temi, e poi c'è un faldone di omelie in lingua italiana, dove la lingua appunto è più semplice anche sul piano sintattico, le formule sono abbastanza ripetitive, e lì è diversa proprio la gestazione direi la formulazione, ma per ragioni mi pare di madrelingua sostanzialmente. Le pastorali invece no, sono proprio la traduzione letterale, proprio meccanica, da una lingua all'altra. Ecco, mi fermo anche sulla domanda appunto che ha fatto Antonio sui documenti appunto su cui ho lavorato. In base a questi documenti, essendo la finalità del mio lavoro orientata a ricostruire il pensiero, no, del vescovo in relazione ai fatti del tempo, non trovo nulla appunto che mi possa dare indicazioni nel senso della domanda che ponevi tu. Tutto un capitolo da studiare e da aprire, qui non resta che provare appunto ad incominciare a farlo, diciamo. Le domande di Andrea, ecco, se c'è continuità o rottura tra il predecessore di Geisler, che è Johannes Rappel, che viene nominato nel 21 e rimane in carica fino alla morte nel 27, e la predicazione appunto di Geisler. Rappel, quindi, che muore nel 27, due anni prima la stipula dei patti lateranensi. Tenderei a vedere più continuità che rottura, nel senso che anche qui appunto l'approccio culturale è lo stesso, è quello appunto del cattolicesimo intransigente, di condanna della modernità, di impegno per il ripristino della cristianità attaccata dai nemici della modernità. Indubbiamente la conciliazione del 29 è un momento solenne, festeggiato appunto anche dal cattolico Sontag Blatt, che mette il titolo a tutta pagina, no? Fa una celebrazione solenne, trionfalistica, no? dell'avvenimento. Quella vicenda mi sembra che, ecco, come dire, dia forza, speranza e coraggio che magari mancavano a Rappel, in cui prevale più il pessimismo, come dire, siamo soli di fronte appunto alla modernità. Con Geisler non siamo più soli, ecco, c'è lo stato confessionale, c'è la polizia che può reprimere la bestemmia, per esempio ci sono dei passi interessanti anche sulla profanazione della domenica, no? È possibile rimettere ordine appunto nella vita quotidiana grazie appunto all'autorità ricostituita appunto nel 29, però tenderebbe avere più continuità che rottura, nel senso che proprio la matrice culturale ideologica mi sembra la stessa, l'humus proprio di la formazione culturale, mentale, anche psicologica forse direi, è la stessa, ma è anche quella del vescovo Edrici di Trento, che pure era su posizioni anche per ragioni appunto legate al redentismo, anche prima della Grande Guerra, diverse dal collega Eger di Bressanone, però le radici culturali sono le stesse, e cioè appunto sono quelle elaborate dalla cultura intransigente cattolica, che poi diventa magistero a partire da Pio IX con il sillabo del 1864. Il confronto appunto tra il nostro confine, diciamo il confine del Brennero e il confine con la chiesa del confine orientale. E io mi ricordo di aver visto parecchi anni fa, non le lettere pastorali, ma le relazioni sardine dei vescovi appunto della Venezia Giulia, e quindi documenti che non destinati alla predicazione, ma che gli vescovi erano e sono tenuti ad inviare periodicamente a Roma sullo stato della diocesi, stato morale, stato materiale. Beh, anche lì c'era comunque come lettura dei fatti da parte appunto dei vescovi giuliani, c'era comunque la denuncia della secolarizzazione, la denuncia appunto dei mali del tempo, e si leggeva, vado un po' a memoria, e si leggeva gli eventi appunto successivi alla Grande Guerra comunque come figli di un tempo che ha abbandonato Dio, che si è emancipato da Dio e dalla Chiesa. Questa lettura culturale la trovo, l'avevo trovata anche lì, non ho letto direttamente i testi, li ho letti attraverso mediazioni di studi di Piero Frassina, ormai risale insomma a parecchi anni fa, però anche questo sarebbe un percorso tutto da aprire, probabilmente anche da allargando le fonti, anche indubbiamente, sì. Non so se credo di aver risposto solo in parte così a queste sollecitazioni, ma questo è quello che insomma mi sentirete ora di dire, ecco. Posso aggiungere un'ultimissima domanda che deriva da un interesse professionale, diciamo, no? Che riguarda la presenza della chiesa locale nell'azione sociale, no? Noi sappiamo che la Rerum Novarum, no? Di Leone XIII ha avuto un'accoglienza particolarmente positiva in area alpina. La presenza sociale della chiesa, anche attraverso il movimento cooperativo, è stata una presenza molto importante in area trentina, in area tirolese, ha dato luogo di esperienze di autoaiuto, di solidarietà, insomma, che hanno svolto una funzione importante nel mediare una situazione sociale ed economica difficile. E nel pontificato di Pio XI c'è un richiamo esplicito alla Roma, c'è la 14° anno, sì. E poi dopo troveremo al 100° anno, sì. Dopo insomma c'è questa continuità, richiamo, no, interno tra queste incisioni che costituiscono la base della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, c'è allora nell'adesione al magistero di Pio IX che tu hai, è undicesimo, scusa, che tu hai sottolineato, anche un riflesso in una continuità di azione sociale della Chiesa della diocesi di Bressanone sotto Geisler? Mi sento di dire di sì, nel senso che, sempre appunto tornando nei limiti, no, del mio intervento, che sono magari limiti anche abbastanza stretti, cioè appunto delle pastorali di Oveglia, mi sento di rispondere però di sì alla domanda che mi ha fatto Andrea, perché quando Geisler nelle lettere pastorali e nelle omelie parla di economia e società, e lo fa anche qui tra il 36 e il 38 in particolare, magari non lo fa nell'immediato, così non lo fa appunto nel 31 quando esce il 14° anno di Pio XI, però ci torna sopra dopo a più riprese, e descrive un modello di economia, un modello di società che si basa, dovrebbe basarsi nelle sue intenzioni, nei suoi desideri, sulla collaborazione tra le classi, no? Sull'interclassismo. E dice appunto, usa proprio l'espressione dottrina sociale della Chiesa, che è quella nata con Leone XIII, come terza via tra liberalismo individuale egoista, che ha portato appunto alla fame, alla povertà, alla disoccupazione, e collettivismo comunista, no? Che porta o che può portare invece appunto alla, no, alla, al caos, alla barbarie. Quindi usa questa espressione e in diocesi, qui però bisogna veramente cambiare fonti, negli stessi anni su alcuni periodici, sullo stesso Sponfacciat, oppure sulla Sempre sul presidio del Sacro Cuore, che viene stampato a disco in verità, ma che ha diffusione appunto anche in, nel Tirolo meridionale e in Alto Adige, c'è un riferimento esplicito proprio al corporativismo, al modello dell'austro, del fascismo austriaco, no? E proprio ci sono appunto alcuni docenti del seminario di Bressanone che scrivono dei piccoli saggi sui giornali storici locali, in cui appunto si elogia il modello austriaco, del corporativismo austriaco, che è anche qui un ritorno al Medioevo come epoca ideale di cristianità perfetta, e poi anche proprio un elogio del fascismo italiano, no? Dell'impianto corporativo dello Stato italiano. Quindi dalla predicazione religiosa tocchiamo appunto il campo dell'economia di Andrea, appunto, che è importante riprendere. Bene, io ringrazio Andrea Zaghi anche per la precisione con cui ha risposto a queste domande, per l'onestà intellettuale che ha dimostrato nel non rispondere alle domande, che forse è la cosa più difficile da fare in assoluto. Ringrazio la scuola per averci ospitato qui, Valeria Trevisan nella Biblioteca Comunitaria, per l'organizzazione. Spero che la collaborazione continui, insomma, da questo punto di vista. Michela Urba, che è direttrice di Decito un Trigione, che ha partecipato all'organizzazione degli eventi di questo e tanti altri che ci sono stati e ci saranno. E ringrazio voi per le domande che avete fatto e per la partecipazione, e arrivederci presto, spero. Grazie.